l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale in collaborazione con Euronet, dove raccontiamo l'Europa da un nostro punto di vista. Oggi siamo in diretta dalla BIT di Milano, padiglione 3, stand B49, se volete venirci a trovare. Siamo alla radio ufficiale della Borsa Italiana del Turismo e siamo qua dentro al nostro acquario e ci piace molto, quindi vi aspettiamo. Abbiamo già caricato anche le pagine, le foto nella nostra pagina in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, dove carichiamo anche tutti i link relativi agli argomenti, ma potete anche trovarci e contattarci via sms al 349-238-6666 oppure l'altraeuropa@radio24.it. Si parte, sarà un lungo viaggio anche quello che faremo oggi all'interno del nostro continente, e partiamo con un cane e con un gatto. Troppi, troppi topi a Downing Street, serve un gatto. Il gatto arriva, si chiama Larry, ma Larry graffia un giornalista, ma questo giornalista per fortuna non è Andrea Malaguti, corrispondente da Londra della Stampa, qua con noi. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a voi. No, fortunatamente non ero io, era un collega che è stato colpito da questo gatto ormai che è diventato una celebrità qui a Londra. Infatti, insomma, mi ha fatto anche sorridere perché anche tu hai scritto di questo gatto, insomma, non l'hai intervistato, e di questo topo soprattutto. Fotografaci la situazione, cos'è accaduto? Dunque, è accaduto questo, fa abbastanza sorridere, io immagino, visto dall'Italia, ma qui è diventato una sorta di dramma nazionale, perché succede che una mattina un giornalista che si occupa di politica, Gary O'Donoghue della BBC, fa questo servizio davanti a Downing Street e improvvisamente alle sue spalle si vede passare un topo davanti alla porta più prestigiosa di Inghilterra. Va bene, si ridono tutti su un episodio così curioso, salvo il fatto che tre giorni dopo la scena si ripete davanti alle telecamere di ITV. A quel punto Downing Street dice un topo che passa davanti a Downing Street una volta è un fatto curioso, la seconda volta è un incidente diplomatico. Come si risolve questo incidente diplomatico? Naturalmente con il più antico e funzionale e funzionante dei sistemi, cioè si ricorre a un cacciatore di topi, cioè un gatto. Perfetto. A quel punto si cerca il gatto e il gatto diventa una specie di celebrità. Chi è, come si chiama, da dove viene, quanto pesa, come lo trattano, cosa gli danno da mangiare, gli danno persino uno stipendio, insomma, si scatena un grande dibattito su questo gatto che finalmente arriva. Si chiama Larry, ha 4 anni, mantello bianco tigrato, però appunto la sua prima uscita pubblica è stata caratterizzata da questo atto aggressivo nei confronti della stampa. Sì, questo atto aggressivo, perché in effetti in questo momento i rapporti tra la stampa e il governo inglese non sono particolarmente lineari, per quanto bisogna dire che qua c'è un'abitudine alle relazioni con la stampa molto diversa da quella che c'è in Italia, nel senso che i giornalisti sono straordinariamente aggressivi e i politici lo prendono come un fatto assolutamente fisiologico. Immediatamente comunque gli antichi titolari di Larry, del gatto, e vale a dire i gestori di questa casa per cani e gatti, hanno spiegato che per un gatto delle caratteristiche di Larry, che è considerato uno straordinario cacciatore, un gatto con un grande istinto per la caccia, ci vogliono 8 settimane per adeguarsi alla nuova casa e al nuovo mondo, per quanto sia una casa piuttosto speciale e raffinata. Ok, quindi insomma è stato giustificato. Grazie davvero Andrea per averci dato questo assaggio di Europa sorridente, insomma, a volte anche ci piace un po' ridere dell'attualità, perché insomma per sdrammatizzare un po'. Grazie, buon lavoro, ciao Andrea, ciao ciao. E dal gatto e dal topo di Londra passiamo invece al cane del Portogallo. Si intitola Il cane de Socrates, è il titolo di un libro satirico che però attacca duramente il primo ministro portoghese, un libro che sta avendo molto successo anche in rete, una forte eco, e con noi c'è Fernando Parata, caporedattore del principale telegiornale portoghese, tutti i giorni in onda su RTP1. Ciao Fernando, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Esiste per davvero questo cane? No, il cane non esiste, non esiste come Larry oppure come il cane di Obama, che è un cane portoghese, è un cane di portoghese, sì. Ma qua Socrates, che si sappia, non c'ha cane. Allora, dietro, insomma, ha usato un po' il cane o la metafora del cane, un autore che è anonimo tra l'altro, per fare un po' di critica al governo. Ha finto appunto di raccontare le frasi tipiche del primo ministro Socrates, che tra l'altro credo che politicamente non stia vivendo un grande momento, giusto? Sì, infatti, no, dopo una prima maggioranza che ha durato per 4 anni, e dopo che la crisi è avvenuta, questa seconda volta non c'è la maggioranza al Parlamento, il Partito Socialista, quindi con la crisi la vita sta difficile per il governo del Partito Socialista e per Socrates. E ascolta, ma c'è stata qualche reazione, nel senso, si è arrabbiato Socrates, oppure si è scoperto chi c'è dietro a questo libro? No, non si sa veramente chi possa averlo scritto. Il libro si vende abbastanza, non direi che è un best seller, perché qua in Portogallo si legge poco. Diciamo che un'edizione fa 10.000 libri, saranno stati venduti 20.000 forse, ma infatti con questo nuovo avvenimento delle reti sociali e che se ne parla più facilmente, e quindi è veramente molta gente parla su questo libro, questo è vero, sì. Okay. È interessante perché la critica che c'è in questo libro, per esempio qua un anno e mezzo fa è stato molto discorso Socrates è ingegnere, e se ne è parlato che avrebbe il suo corso potrebbe darsi che non era vero, che l'avrebbe compito tutto. Infatti c'è un passaggio del libro, vero, dove il cane si prende lui la colpa di aver fatto sparire l'unica traccia di questa fantomatica laurea in ingegneria. Sì, appunto, perché si è parlato tanto un anno fa su questo punto, questo tipo di critica che il libro porta, sì. Insomma, satira alla portoghese. Grazie davvero a Fernando Parata, caporedattore del principale telegiornale del Portogallo. Ci ritroveremo sicuramente qui in onda in una delle prossime puntate dell'Alta Europa. Ciao Fernando. Adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando. Poi ancora qua con l'Alta Europa in diretta dalla Beat di Milano. Euro post-it. L'arte italiana sbarca a Lisbona. Gli artisti emergenti escono dai confini italiani per approdare in Portogallo, più precisamente a Lisbona, in occasione del celebre Carnevale portoghese. Il nome della mostra internazionale d'arte contemporanea è Arte e Emoção, e a curarla è una critica e storica dell'arte nostrana, Sabrina Falzone. A ospitarla invece è la rinomata Colorida Galleria de Arte e Design, situata nel cuore della città. La mostra indaga l'affascinante universo del colore e mette in evidenza il fermento artistico che si è sviluppato negli ultimi decenni nelle regioni italiane e in Europa, colorando in modo ancora più variopinto la capitale portoghese, che nei mesi di febbraio e marzo festeggia con luci, maschere e carri il suo carnevale. La mostra apre il prossimo 26 febbraio e chiuderà il 10 marzo. Per saperne di più, arsmaiora.it. L'altra Europa. Eccoci qua, l'altra Europa in diretta dalla Beat di Milano, padiglione 3, stand B49. Se volete venirci a trovare, si parla di Europa dai nostri diversi punti di vista e andiamo a farci una camminata in giro per l'Europa con un catalogo che è stato proprio presentato qui alla Beat venerdì, ieri. Si chiama Cammini d'Europa ed è una sorta di vademecum del camminare per conoscere antiche strade del nostro continente, là dove insomma le radici anche di questa Europa unita nascono, là dove l'Europa per prima si è respirata. Con noi c'è Alessandro Cardinali, presidente dell'associazione Cammini d'Europa. Ciao Alessandro, benvenuto. Buongiorno. Sei a piedi? Sì, sto camminando. Giustamente, mi sembra il minimo. Allora, Alessandro, spiegaci un po' cosa sono questi cammini d'Europa che voi avete raccolto, raccontato e state proponendo come una forma alternativa di turismo slow, diciamo. Esatto, siamo partiti 15 anni fa

Con un biglietto unico si viaggia per i paesi europei in treno, spendendo poco e facendo nuove conoscenze. Anche il sito www.urail.com, che permette di prenotare e cercare notizie sull'Interrail, è molto giovane e allegro, ma soprattutto ricco di informazioni utili e facilmente accessibili per rispondere a tutti i bisogni dei viaggiatori. Non solo. Il sito offre anche una serie di servizi e di notizie in tempo reale e ha anche la sua versione su Facebook, Twitter e YouTube, in modo da essere accessibile dovunque. Di recente Urail ha promosso anche un concorso di video per raccontare l'esperienza dell'Interrail. Per tutti questi motivi, il sito ha anche vinto uno degli Oscar del web, il Mashable Award. Prendete la valigia e andate su eurail.com. Questi sono i nostri Europost-it, li potete riascoltare sul nostro sito radio24.it oppure tutti i link nelle nostre pagine in Facebook. Continuiamo con i viaggi alternativi per scoprire un'altra Europa, come per esempio, conoscere meglio la Croazia andando a dormire, a soggiornare all'interno dei fari. Tutta la costa croata è caratterizzata dalla presenza di questi fari, molti sono diventati appunto delle sorte di residenze turistiche e sono state tutte messe insieme anche, c'è un catalogo con solo fari della costa croata e con noi c'è il capo del Dipartimento del Turismo della Polvut, azienda statale dei fari. Diamo il benvenuto a Ervoge Mandecic. Ciao Ervoge, credo di aver sbagliato sia il nome che il cognome, mi perdoni. Non fa nulla, buongiorno da Spalato, Croazia. Ciao. Sono Hrvoje Mandecic, so che è difficile pronunciarlo, però continuiamo senza problemi. Tu diciamo che sei il guardiano di tutti i fari, hai un po' questo titolo, questo ruolo? Sono guardiano di tutti i fari turistici, bisogna sapere che la monarchia austro-ungherese ha eretto 48 fari, fari vecchi, fari storici, da questi alcuni sono stati riarredati per accettare i turisti moderni. E di questo mi occupo io, sì, guarda che tutti gli altri faristi fanno quello che hanno fatto sempre, si parlano della luce. Ma quindi questi fari dove puoi andare a dormire sono fari funzionanti? Cioè uno dorme e c'ha il lampione acceso, e questa è un po' la domanda di tutti. Sì, naturalmente, il lampione sempre è acceso, il fanale funziona tutte le 24 ore, cioè funziona naturalmente durante solo la notte, però sono tutti fanali che sono ancora in uso originale. Fantastico. E quindi è una sorta di bed and breakfast? Tu vai lì? È un appartamento tipico turistico, allora non viene offerto niente altro, solo la prenotazione. Perfetto, ma non devi in cambio fare manutenzione al faro, no? No, però tanta gente lo fa volentieri, perché è una storia interessante, tutti questi tori. E luci e naturalmente che sono interessati tutti a dare una mano, però naturalmente non ce n'è bisogno, sono appartamenti di 3 stelle, allora arredati con tutto quanto e diciamo come da noi a casa, però la luce sempre viene accesa. Certo, immagino siano tutti luoghi spettacolari, perché già la costa croata è molto bella, però qual è la sensazione che uno si porta a casa? Cosa vi dicono questi turisti che vivono l'esperienza di dormire, di soggiornare in un faro? Tutti dicono che sono luoghi attraenti, molto particolari dal punto di vista che si può vivere una sensazione della seclusione, di essere dove altra gente non arriva spesso, dove non c'è nessuno in qualche modo. Allora è senza dubbio questa solitudine che offre una idea di una vacanza altra. Certo, una solitudine illuminata, costa molto? Costa, diciamo che stagione alta costa da 500-600 euro settimanali per 4 persone fino a 1200-1300. Perfetto. Il sito è www.lighthouseslinietacroatia.com, abbiamo già inserito il link nelle nostre pagine in Facebook. Grazie davvero, buon faro, non so come ci si saluta, buon faro mi sembra il saluto migliore. Grazie a lei, saluto a tutti i suoi ascoltatori. Buon sabato, ciao, buon un Europost-it, la pubblicità poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Disneyland, un posto per lavorare. Siete in cerca di un lavoretto per migliorare il vostro francese? O semplicemente vi piacerebbe trasferirvi a Parigi? O magari cercate un lavoro in un posto fantastico? Perché non lavorare nel regno della fantasia, cioè Disneyland Parigi? Lo staff di reclutamento di Disneyland ha organizzato alcune sessioni di reclutamento per italiani nel settore legato all'ospitalità, alle vendite e ai servizi. Sono disponibili contratti stagionali, ma anche stage e contratti permanenti. Per partecipare alle selezioni occorre avere qualche esperienza precedente, un buon livello di francese e di inglese ed essere maggiorenni. Per candidarvi, compilate l'application form su disneylandparis-casting.com. L'altra Europa. Ancora buona è sabato da Federico Taddia, questo è sempre l'altra Europa. Siamo in diretta dalla Beat di Milano, padiglione 3, stand B49, se volete venirci a salutare, se volete venirci a trovare. Noi viaggiamo per l'Europa e ci tocca tornare anche questa settimana in Belgio. Perché? Perché le proteste continuano. De sfeer zit meteen goed vanmiddag op de Kouter, waar studenten en kunstenaars de frietrevolutie willen uitroepen. Frieten, het nationale symbool van België. Maar meer nog, de jongeren willen hier ook uit de kleren. Ci hanno provato con lo sciopero del sesso, ci hanno provato con lo sciopero della barba, ma niente, hanno festeggiato, diciamo così, 249 giorni senza un governo in Belgio, un record mondiale. Sono scesi in piazza ancora, soprattutto i giovani, con forme di proteste nuove, questa rivoluzione delle patate fritte. E quindi, per capire cosa è successo in questi giorni, abbiamo riconvocato il giornalista belga Pierre Marlet. Ciao Pierre. Ciao. Ciao, ben ritrovato, siamo qua. Sì. Insomma, la settimana scorsa ci hai raccontato di queste forme atipiche di protesta, esatto. Però insomma, la fantasia non manca, ci siamo accorti nelle strade del Belgio, vero? No, vero, allora rispetto per favore Federico, perché siamo campioni del mondo adesso, l'ha detto, più di 200, adesso 251 giorni, oggi senza accordo di governo, abbiamo battuto il record dell'Iraq. E questo può sembrare un disonore, ma in Belgio molta gente ha provato di farnare un onore, e questo è tipico del senso della derisione, dell'ironia che caratterizza spesso la gente qui. E tra 200.000 a 20.000 studenti a Gante, sì. Bruxelles, Liegi, cioè delle due parti del Belgio, hanno festeggiato il primato mondiale di un paese senza accordo di governo dopo elezioni. E l'ha fatto anche con un messaggio politico: non vogliamo dividere il paese. L'unico problema è che 1.200.000 di persone hanno votato l'anno scorso per il Partito Nazionalista Fiammingo, che vuole che il Belgio finisce, e se dobbiamo votare di nuovo, i sondaggi prevedono che questo partito, già il più importante di Flandria, sarà in progresso. E perché il leader del partito è un poco l'uomo di riferimento per una grande parte degli fiamminghi, si chiama Bart De Wever. Cioè, questa manifestazione improvvisata, chiamata la rivoluzione delle patate fritte, il simbolo gastronomico nazionale, è buonissima per l'immagine del Belgio all'estero, ma non risolve niente. E posso scommettere con lei, Federico, che riusciremo a arrivare almeno agli 300 giorni e forse ancora di più senza governo nazionale. Penso anch'io. Abbiamo caricato anche il video di cui abbiamo sentito l'audio prima, perché l'ultima protesta, questa festa da campioni del mondo, è stata celebrata anche con una sorta di spogliarello in strada. Tanta goliardia e tanta ironia, tanta satira, però c'è questa preoccupazione di fondo, e soprattutto dei giovani, che la soluzione venga trovata in una divisione della nazione. Quindi insomma, è un tema importante, c'è molta attenzione, però mi sembra che ci sia veramente anche una sorta di acquisizione di responsabilità civile, cioè i giovani si vogliono far sentire e il loro pensiero è vivo, è chiaro. E questo è vero, che c'è qualcosa che arriva soprattutto per i giovani, che i giovani non vogliono che il Belgio si finisce. Questo è totalmente vero, e cioè forse ci sarà qualcosa di speciale, perché È charo che la gente non ha la soluzione nelle strade, non ha la soluzione politica, ma non vuole che il Belgio sparisce. Ma il problema surrealista un poco è che la gente finalmente dice che possiamo vivere in un modo normale, senza governo, e che questa settimana, per esempio, anche un ministro ha detto ma un governo, c'è uno che governa, che è il governo dell'anno scorso, che si dimettò e che provocò le elezioni e che come non è altro governo e continua a lavorare. Ci sono anche i governi regionali di Fiandria, di Valonia, di Bruxelles che lavorano normalmente e io credo che forse questo è precisamente un rischio mortale per il paese, perché possiamo continuare così e a vivere in un modo normale senza governo nazionale e forse che il paese finirà come l'avevo detto questo Bart De Wever, il leader nazionalista flamenco, come l'aveva detto a un giornale americano, che forse il paese, il Belgio, finirà per spegnere come una candela, sai come se sì, nessuno lo vede e a un momento finalmente il Belgio non governa più. E io credo che questo è un rischio e voglio vedere ciò che può arrivare con i giovani, con la gente che finalmente dice dobbiamo trovare una soluzione perché vogliamo che il Belgio continui a vivere. Anche perché anche noi vogliamo, insomma, è il cuore dell'Europa di fatto, non è il cuore politico, quindi insomma è oltre che una metafora, oltre che un simbolo. Grazie davvero Pier, ci ritroveremo sicuramente prossimamente qui all'Altra Europa. Buon lavoro e buon sabato. Con piacere, grazie mille. Ciao Pier. Europost-it. Chuck si gira, ma solo per i giovani. Il Ministero della Gioventù e quello dei Beni Culturali insieme per promuovere la cultura cinematografica tra i giovani. L'idea è di sostenere economicamente le opere cinematografiche scritte da giovani under 35. Alle 5 sceneggiature migliori, il Dipartimento della Gioventù darà un contributo di 10.000 euro. I progetti di sceneggiatura a tema libero devono essere inediti e originali. La sceneggiatura deve essere mandata al Ministero della Gioventù e deve arrivare entro il 25 marzo 2011. Trovate il regolamento su gioventù.gov.it. www.euranet.eu è il portale del nostro network radiofonico, tante radio di tante nazioni che cercano di raccontare dal loro punto di vista la nostra Europa. Ogni settimana anche un argomento comune su cui puntiamo il nostro focus e questa settimana parliamo di ricerca sul cancro. In Europa aumenta la ricerca, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le morti per cancro in Europa dovrebbero diminuire nel 2011, ma un grande passo in avanti nella ricerca internazionale è stato fatto con il lancio della piattaforma Eurocan, eurocanplus.org. È stato un progetto importante, anche se è stato una sorta di primo progetto, di punto di arrivo, ma anche di punto di partenza e di un ulteriore progetto che sta partendo ora. Per capire quello che sta accadendo a livello europeo abbiamo invitato il dottor Filippo Belardelli, direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e delle Neuroscienze dell'Istituto Superiore di Sanità e coordinatore del progetto per l'Italia. Buongiorno Belardelli, benvenuta alla Altra Europa. Buongiorno, buon sabato. E, insomma, lei ha rappresentato in Italia questo importante progetto Eurocan Plus. E di cosa si tratta? Il progetto è stato sollecitato direttamente dal Parlamento europeo e si è concluso nel 2008. È stato coordinato dall'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro, rappresentando il più esteso studio di fattibilità sui problemi e le soluzioni possibili per coordinare meglio la ricerca sul cancro in Europa. Ha visto anche la partecipazione di più di 1.000 esperti e rappresentanti della maggior parte dei paesi europei e l'Istituto Superiore di Sanità ha rappresentato l'Italia in questo progetto. Il progetto ha prodotto poi alcune raccomandazioni alla Commissione, tra queste quelle del lancio di un progetto di rete, che si dice Eranet, tra i diversi paesi europei per promuovere la ricerca traslazionale sul cancro e ciò ha portato ad un bando da parte della Commissione, alla presentazione che è stata coordinata dall'Italia di un grande progetto che si chiama Transcan, che ha coinvolto 19 paesi e 25 istituzioni, e è stato approvato, finanziato e vedrà il primo incontro proprio il 3-4 marzo prossimo a Roma. Ecco, Belardelli, insomma, immagino che lei sia uno più abituato ai fatti che alle parole, no? E quando si pensa, e quando, molte volte c'è un po' l'idea che questi coordinamenti, questi accordi europei, sì, siano teorici, però non abbiano ricadute sui cittadini. Invece in questo caso ci sono state e ci sono e ci saranno ricadute importanti? Le ricadute importanti è che questo è il primo progetto in cui i 19 paesi europei si riuniscono per sviluppare delle priorità di progetti di ricerca sul cancro che siano condivisi, su temi condivisi, con regole condivise, secondo, diciamo, i concetti, alcune priorità stabilite. Il focus in questo caso è proprio sulla ricerca traslazionale, ovvero non solo progetti di conoscenza di base, ma quelli che mostrano potenzialità di passare dalla scoperta del laboratorio al letto del paziente. E il progetto è coordinato dal Ministero della Salute con il coordinamento scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità. E diciamo, questo mi piace anche sottolineare, che il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità è anche un senso di riconoscimento al ruolo attivo che l'Italia, l'Istituto ha condotto sia nel progetto Eurocan Plus che nella finalizzazione di questo progetto. Di questa rete, insomma, che appunto i lavori stanno partendo come ci ha anticipato, ecco, ma parliamo un attimo del nostro paese rispetto ai modelli di altri paesi europei. Come siamo messi? Abbiamo punti di forza, abbiamo punti di debolezza? Ma il paese, diciamo, ha senz'altro dei punti di forza: sono il livello di eccellenza di alcuni centri e la qualità e l'entusiasmo di molti nostri ricercatori. Come paese abbiamo un problema di particolare difficoltà nel passare dalla ricerca di base alla sperimentazione clinica, ed è questo che si chiama queste iniziative verso la ricerca traslazionale. Favorire con delle reti di servizio, delle infrastrutture dedicate, e si sta molto lavorando anche in termini di progetti europei per queste grandi infrastrutture di ricerca, per allestire servizi che facilitino il ricercatore al passaggio proprio al letto del malato, che è un aspetto complesso per gli aspetti regolatori che sono così importanti e così complessi da risolvere. Esempi positivi, abbiamo pure degli esempi di reti che in parte hanno funzionato bene. Mi riferisco per esempio al bilancio del lavoro fatto coordinando la rete degli istituti oncologici che fanno capo al Ministero della Salute, Alleanza contro il cancro, con il cosiddetto progetto Istituto Superiore di Sanità per Alleanza contro il cancro. Il bilancio, che è stato fatto proprio in un convegno la scorsa settimana a Roma, ha portato dei risultati positivi. I punti di debolezza, sono quelli che, diciamo, la mancanza di una strategia che coerente e continua, che supporti queste iniziative di rete in un momento in cui è importante evitare sprechi, duplicazioni, dando ossigeno a quelle che sono le esperienze maggiori, che creano sinergismo e collegamento con le grandi progetti, per esempio con le grandi infrastrutture europee. Certo. Da un miglior uso delle risorse, quindi questo sarebbe senz'altro a vantaggio dei pazienti, del cittadino, dello sviluppo socio-economico del paese, e la necessità di un migliore collegamento tra i ministeri e le varie, diciamo, le forze in campo. Grazie davvero, dottor Belardelli, insomma, in bocca al lupo per il suo lavoro e di tutto il suo staff, che è, insomma, fondamentale per il nostro presente e per il nostro futuro. Buon sabato, grazie. Grazie e buona giornata. L'altra Europa. Iris e Amanda sono esattamente nella stessa situazione. Dove voglio andare a Natale, sola e depressa? Le separano solo 6.000 miglia. Scambio di casa. Scambiamo casa, macchina, tutto. Bingo. Puoi rispondermi a questa domanda? Quanti uomini ci sono nella tua città? Perfetto. Mi faccia gli auguri. Sì, il prossimo. We're on our way. È un trailer di un film di qualche anno fa, L'amore non va in vacanza, The Holiday. Siamo qui alla BIT, alla Borsa del Turismo, in diretta col nostro stand dal padiglione 3 e B49, visto che stiamo parlando di modi per visitare l'Europa anche in, con appunto forme di turismo alternativo. Parliamo dello scambio casa e lo facciamo con Alessia Angelini, che è appena rientrata, credo, da un weekend a Valencia e non era il suo primo viaggio. Ciao Alessia, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, ciao. Allora, tu veramente l'hai visitato, diciamo, un altro mondo, ma in particolare oggi parliamo di Europa utilizzando questa strana forma turistica, cioè scambiando casa. Sì, sì, sì. E niente, noi abbiamo fatto diversi scambi casa dal 2006, ho cominciato io con una mia amica nel 2006 e sì, dal 2006 ne avrò fatti più di 10. E niente, l'ultimo l'abbiamo fatto a Valencia il weekend scorso con Alice, la nostra bimba che ha 2 anni e mezzo, e abbiamo scambiato casa con questa famiglia di Valencia che ha una seconda casa non proprio in centro a Valencia ma più sul mare, in un quartiere che si chiama Segunto. Sì. E loro erano già venuti qua da noi a Lucca la prima settimana di luglio dell'anno scorso. E insomma, allora, intanto diamo il sito, che è scambiocasa.com, perché volesse tutte le informazioni per entrare in questo circuito di condivisione. E raccontaci un po', al di là del come si fa, che insomma ci sono regole di base, però il perché di questo tipo di vacanza. C'è sicuramente anche una sorta di risparmio economico, però non credo sia questo il primo motivo, la prima motivazione, la prima spinta. No, io ho cominciato perché mi ricordo che sentii una notizia al telegiornale che c'era questa possibilità di fare scambio casa e andai su internet e cominciai un po' a informarmi. E poi così, quasi per provare, cominciai con una mia amica. E dopo il primo scambio è stato talmente bello, talmente interessante, che dopo non ti riesci più a fermare. E niente, la bellezza qual è? La bellezza è, vabbè, una cosa che economicamente è vantaggiosissimo, però rispetto per esempio a un albergo, cioè una casa con tutte le comodità, non hai orari, hai tutto quello che ti serve, specialmente con i bimbi, facilita tantissimo. E poi, cosa ancora più bella, cioè entri in contatto con persone che poi io quasi tutti gli scambi che ho fatto praticamente sono diventata amica per sempre di tutte queste persone. C'è una famiglia americana con cui ho scambiato la prima volta, che tutti gli anni sono venuti qui a casa mia dal 2006. E io a casa sua ci sono stata già 2 volte, ora a aprile ci va la mia mamma, c'è stata già la mia sorella, cioè diventa proprio una sorta di amicizia. Di fatto sei meno turista e sei più residente, perché ti trovi veramente a vivere la quotidianità. Sì. E solitamente uno con lo scambio casa pensa a viaggi lunghi, una settimana, 15 giorni. Invece tu, per esempio, hai appena fatto un weekend, quindi si possono fare anche toccate e fuga. Sì, sì, noi abbiamo fatto un weekend lungo, cioè di 4-5 giorni, e si può fare anche quello, anzi approfittando anche dei voli low cost che ci sono qui, per esempio con la Spagna, l'Inghilterra, uno se lo organizza anche un pochino prima, sente se la casa è libera. Poi la maggior parte sono seconde case, quindi cioè, ci si trova bene, abbastanza d'accordo. Se invece non ci sono seconde case, magari bisogna programmarlo un po' meglio, perché magari lo scambio deve essere simultaneo, però cioè, ci si trova sempre d'accordo. La famiglia da dove siamo state ora noi è stata gentilissima, a parte che l'avevamo già conosciuti qui, però con loro abbiamo scambiato anche la macchina, per esempio. E okay, loro quando siamo andati là ci sono venuti a prendere all'aeroporto, moglie e marito, con 2 macchine separate. Poi ci hanno dato una macchina a noi e fra l'altro ci hanno anche fornito del seggiolino per la bimba. L'avevano preso in prestito da una famiglia amica che ci aveva un bimbo piccolo. Mm-hmm. Quindi ti facilitano anche tutto l'organizzazione, diciamo. Ecco, ok, però adesso l'altra faccia della medaglia, uh-huh, devi però lasciare comunque la tua casa in mani altrui. Ecco, lì cosa si prova? Allora, lì si prova questo, che se la lasci tranquillamente e non hai mai pensieri di dire oddio, dormono sul mio letto, oddio, ma aprono il mio cassetto, e questi qui, lo fai tranquillamente. Se invece hai tutti questi pensieri, o anche per esempio se siete è una famiglia, marito e moglie, ce n'è uno dei due che ha tutte queste ansie, non ci si fa a scambiare casa, perché è veramente dare tutto quello che hai, capito? Quindi se uno comincia a pensare, mi toccano le mie cose, bevono i miei bicchieri e tutto, cioè non si può fare. È un inferno, non una vacanza. Io non provo niente, cioè nel senso, anzi, io quando arrivano sono contenta, mi piace, per dire, c'ho un cassettino che ho fatto tutte le cartine, i ristoranti dove possono andare, gli do le password per internet. Vabbè, insomma, meglio di un tour operator. Alessia, al prossimo viaggio l'hai già organizzato, qual è l'obiettivo? Allora, al prossimo viaggio noi abbiamo fatto anche, noi se succede che qualcuno ci chiede di scambiare casa, sì. È successo che per esempio una signora di San Francisco era da sola e voleva scambiare casa, però io in quel momento lì a San Francisco non avevo un programma da andare, okay. E gli dissi se voleva venire a stare con noi, quindi è già il secondo anno che lei viene a stare con noi per 2 o 3 settimane. Ok, insomma, quindi San Francisco può essere la prossima meta. Grazie davvero, sì. Ricordiamo, ciao Alessia, grazie, buon viaggio, insomma, ti invidiamo tutti. Scambiocasa.com è il sito ufficiale, ma tutti i link relativi agli argomenti di oggi li trovate sulle nostre pagine in facebook.com/l'altra Europa. Un grazie a Margherita Ina che con me ha scritto la puntata, Claudia Carusi in assistenza oggi, l'intera squadra di Radio 24, Giorgio De Luca, Viola Bottoni, Paolo Corleone alla parte tecnica, Davide Ciocia qui nello studio alla BIT, dove la diretta di Radio 24 continua. Fra poco cibo e turismo insieme al mitico gastronauta. Noi ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.